Focus Economia. Con Simone Spezia. 17, 9 minuti e 50 secondi, buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia, puntata che dedicheremo in gran parte naturalmente alle vicende che riguardano il Giappone, anche se toccheremo poi anche il tema dell'Ecofin, perché l'impatto, come avete sentito, come vi stiamo raccontando anche nei nostri giornali radio, è forte. Dal lato dei mercati naturalmente, con Tokyo che ha chiuso questa mattina in ribasso del 10,5% e i listini europei e americani che ne hanno risentito, anche se le cose stanno lievemente migliorando rispetto a come si prospettava il pomeriggio, come si era prospettata la mattina. Ne parleremo da questo lato, naturalmente ne parleremo anche dal lato della questione nucleare, perché il dibattito, come avete sentito, si riapre non solamente in Italia, ci sono provvedimenti importanti presi da altri paesi come la Germania, che ha deciso di chiudere 7 vecchi impianti nucleari, si torna a discutere della sicurezza, alcune scelte vengono messe in discussione, vuoi per questioni politiche, vuoi naturalmente per altre questioni, per legittime preoccupazioni, e ci sono da questo punto di vista molte dichiarazioni e al momento dobbiamo dire non moltissima chiarezza. Prima però di darvi come sempre notizie in breve di questa giornata, naturalmente il numero per intervenire in diretta che è il 349-238-6666 e soprattutto un primo aggiornamento sui mercati e poi ci torneremo più tardi. Livia Zancanella, Radio Core, il Sole 24 Ore, buonasera. No, mi dicono che Livia Zancanella non è ancora pronta. Intanto vi posso dire io quello che sta succedendo dal punto di vista di come stanno andando esattamente i listini. Il FTSE All Share cede il 2,11%, il FTSE MIB il 2,17%, tra le borse peggiori c'è Francoforte che cede il 3,06%, mentre l'America sta recuperando qualcosa, meno 1,41% sul Dow Jones. Da segnalare a proposito di Francoforte, che abbiamo detto che le cose vanno molto male, ma impressionante è l'andamento dei titoli delle cosiddette energie alternative. GoCoEnergy, che si occupa di fotovoltaico, ha un guadagno del 52% solo, un altrettanto fotovoltaico più 31%, SolarWorld 11,5%, Nordex che si occupa invece di eolico più 8,81%, mentre tra i nostri titoli sul FTSE MIB uno dei migliori è Enel Green Power, tra i pochi in positivo. Allora, un primo quadro di questa giornata, Livia Zancanella, Radio Core, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, naturalmente effetto Giappone. Sì, infatti l'allarme nucleare in Giappone e le possibili ripercussioni che la catastrofe nipponica avrà sull'economia mondiale hanno infatti scatenato le vendite sui listini europei già dall'inizio di questa mattina, a causa anche del tonfo della borsa di Tokyo, che ha perso oltre il 10,5%. A seguito dell'apertura di Wall Street, i listini europei hanno poi peggiorato l'andamento per poi recuperare terreno invece verso il finale di seduta. Infatti vediamo ora che il FTSE MIB perde il 2,2%, mentre in giornata è arrivato a perdere il 3,9%. Stessa cosa per la borsa di Francoforte, che ora arretra del 3% circa, mentre in mattinata era arrivata a perdere oltre il 5,5%. Perfetto, grazie Livia dunque per questo quadro iniziale. Noi ci risentiremo tra poco per fare il punto anche sui singoli titoli, perché poi all'interno di tutto ciò ci sono anche singole storie che non riguardano espressamente la questione giapponese, come la vicenda Premafin, ci sono i conti di Intesa San Paolo, quindi parecchie cose da ascoltare. Grazie Livia, a tra poco dunque. Grazie a voi. Allora, ci chiedete perché, in più d'uno ci chiedete perché la borsa, perché le autorità nipponiche non hanno fermato le contrattazioni. Tra poco parleremo anche di questo con degli esperti. Prima le notizie in breve della giornata. Allora, Allora, della chiusura della borsa di Tokyo ve l'abbiamo detto, c'è da dire che in corso di seduta è arrivata a perdere un meno 14% e il governo, seppur non ha chiuso le contrattazioni, ha parlato di un possibile acquisto da parte del governo stesso di azioni in borsa. Insomma, un evento abbastanza strano, una mossa piuttosto insolita, dice, lo ha detto il ministro delle politiche economiche e fiscali Kaoru Yosano. Apprendiamo tra l'altro, a proposito di nucleare, una notizia appena battuta dalle agenzie. I paesi dell'Unione Europea hanno deciso di effettuare test di resistenza sulle centrali nucleari europee su base volontaria. Lo ha annunciato il commissario europeo per l'energia Günther Oettinger. Su questo tema torneremo tra poco. Intanto vediamo come sempre le materie prime. L'oro in rialzo a $1,424,90 l'oncia, mentre il petrolio aperto in cala a New York, un meno 3% a $98,14. Da segnalare anche una notizia che arriva proprio dal Giappone. Per far fronte alla mancanza di energia dovuta alla chiusura delle centrali nucleari, il Giappone importerà gas e questo fatto alzerà i prezzi del gas naturalmente. Questo ha detto tra l'altro la portavoce dello stesso Oettinger che abbiamo nominato un attimo fa. Dal lato della cronaca, insomma, vi ha già raccontato qualcosa il nostro Paolo Piacenza poco fa, lo risentiremo tra poco, mentre invece per quanto riguarda le scelte del nostro paese, per quanto riguarda il nucleare, sono intervenute varie persone. A partire dal ministro competente Paolo Romani, inimmaginabile tornare indietro. Tutti i paesi europei hanno centrali, il 19% dell'energia che consumiamo in Italia è prodotta dal nucleare, dice Romani, inimmaginabile tornare indietro su un percorso già attivato. Il ministro ha anche escluso che le centrali nucleari europee di nuova generazione possano essere spente. Nel frattempo interviene l'opposizione, dice Pierluigi Bersani, leader del PD. Mi pare un atteggiamento insensato. Noi abbiamo delle buone ragioni per dire no al piano del governo sul nucleare, che è totalmente sbagliato. Fermatevi e riflettete. Ed invece non c'è neanche un accenno sulla necessità di riflessione. Tra l'altro, in Commissione Attività Produttive e Ambiente, oggi l'esame del decreto legislativo che definisce i criteri per l'avvio di centrali nucleari in Italia è slittato. L'opposizione ha lamentato l'assenza del governo in Commissione. Da segnalare che il decreto deve essere approvato entro il 23 di marzo, pena la decadenza. Queste invece le parole della presidente di Confindustria Emma Marcegaglia al microfono di Alessandra Schepisi a margine dell'assemblea pubblica Un'Industria a Valmontone. Dobbiamo aspettare, capire anche le indicazioni che verranno dall'Europa, però insomma la cosa importante è non agire, come dire, in modo emotivo, come diciamo l'Italia ha fatto anche in altre situazioni, quindi valutiamo bene. Ovviamente per noi rimane tutto il problema del costo dell'energia, il problema che importiamo gas da paesi appunto come Libia, Algeria, Russia, quindi io credo che diciamo, la politica energetica che abbiamo impostato fino ad oggi per il momento vada mantenuta, poi ovviamente ragioneremo sulle conseguenze o sulle cose che succederanno in questi giorni. Allora, brevemente, i titoli dalle notizie sull'Ecofin, tema che tratteremo più avanti. Allora, il via libera dell'Ecofin alla riforma del patto di stabilità e di crescita che contiene la stretta sui debiti pubblici, elemento importante per l'Italia, si terrà conto dei fattori rilevanti che incidono sul debito pubblico, come l'indebitamento privato. Commenta positivamente il ministro dell'Economia Giulio Tremonti, per l'Italia l'accordo è molto buono. E veniamo al primo tema di questa giornata, ossia gli effetti economico-finanziari di quel che è successo e che sta succedendo in Giappone. Dunque, del panico che si è scatenato nella giornata di oggi vi abbiamo già raccontato. Il crollo di Tokyo ha lasciato sul campo un 10% dopo uno scivolone già del 6% ieri. Difficoltà ci sono state ad Hong Kong, meno 3%, Taiwan meno 3%, Seoul meno 2,4%, Sydney meno 2,1%, più cauta Shanghai meno 1,4%. Allora, saluto innanzitutto il professor Carlo Filippini, docente ordinario di economia politica alla Bocconi, già direttore dell'ISESAO, Centro di Studi Economico e Sociali per l'Asia Orientale. Buonasera, professor Filippini. Okay. E saluto anche Claudia Segre, segretario generale di Assion Forex, esperto per i mercati emergenti di Abax Bank. Buonasera, Segre. Buonasera. Allora, inizio dal professor Filippini, che so che tra l'altro tra un pochino ci deve abbandonare. Allora, professore, ieri con Sebastiano Barisoni c'è stato ospite qua il capo economista di Nomura, che ha stimato un impatto sul PIL tutto sommato piuttosto limitato. Ecco, mi sembra che al momento la confusione da questo punto di vista sia in realtà massima, semplicemente perché non si capisce quale possa essere l'evoluzione di questa crisi, soprattutto dal lato nucleare, ovviamente. Infatti temo che l'elemento appunto di dubbio sia appunto proprio questo, cioè l'eventuale evolversi dell'incidente nucleare alle due centrali elettriche e di quelle che possono essere le conseguenze. Facendo un'ipotesi diciamo lì più ottimistica, cioè che le emissioni possano essere radioattive, possono essere tenute sotto controllo, effettivamente si può stimare in una cifra che apparentemente è molto elevata, si parla ad esempio di 180 miliardi di dollari, che sarebbe un 3% del PIL, come effetto delle distruzioni. Naturalmente bisogna distinguere, perché confondiamo probabilmente quello che è la ricchezza, diciamo lì lo stock dei beni capitali, il valore delle infrastrutture, compresi gli edifici, le strade, via dicendo, e che questa è più la ricchezza, diciamo lì, nazionale fisica, con quello che invece è il PIL in senso stretto, cioè il reddito che viene prodotto ogni anno. È come se una persona avesse una casa e l'affittasse. Per qualsiasi ragione non la può affittare, il valore della casa può crollare per danni, via dicendo. Una cosa completamente separata è appunto l'affitto che potrebbe percepire. Quindi, data quella perdita sulla ricchezza, cioè sulle infrastrutture, abitazioni, strade, impianti e via dicendo, si stima che invece la perdita del PIL sia molto più ridotta, perché 10.000 motivi. Da un lato la zona colpita è relativamente piccola rispetto a tutto il Giappone e produce relativamente poco. C'è una stima che la zona colpita produca circa il 2% del PIL all'anno. Secondariamente gli impianti produttivi non resteranno... Cioè, il 2% sul totale del PIL giapponese? Esatto, sì, la prefettura di Miyagi o la zona di Sendai, no? Sì. Naturalmente i danni ci sono stati anche in altre parti, però vorrei far notare che la maggior parte degli impianti produttivi che hanno smesso di produrre lo hanno fatto, lo faranno per pochi giorni, forse poche settimane, perché in molti casi si è trattato di una misura precauzionale. Pensiamo solo ai trasporti pubblici a Tokyo, no, non è che per tutto l'anno rimarranno bloccati. Certo. Quindi una piccola parte del territorio giapponese per un periodo, speriamo, relativamente limitato, e in più oserei dire, se il programma di ricostruzione parte immediatamente, l'opinione mi pare di tutti i centri studi è che paradossalmente l'effetto del terremoto, dello tsunami, possa essere in ultima analisi su tutto il 2011 positivo, perché chiaramente certamente si comincerà a costruire. Certamente, perché la ricostruzione crea prodotto interno lordo. Esatto, la costruzione è PIL, è reddito prodotto nel 2011. Certo. Allora, Claudia Segre, avrei una domanda, inizierei proprio più propriamente dai mercati con lei, anche perché è di questo che si occupa. Allora, oggi c'è stata una dichiarazione, devo dire che noi abbiamo trovato abbastanza curiosa, del ministro delle politiche economiche e fiscali giapponese, quindi non proprio un signor nessuno, Kaoru Yosano, il quale dice che il governo potrebbe intervenire acquistando azioni. Allora, sul mercato. Allora, io le chiedo innanzitutto se le risulta che una cosa di questo genere sia mai successa in tempi recenti, perché non ne abbiamo particolare memoria. E la seconda domanda che le giro è quella che ci fanno gli ascoltatori via SMS al 349-238-6666. Dicono, ma insomma, perché il governo giapponese non ha chiuso la borsa come per esempio si è fatto per l'11 settembre? Ma prima di tutto bisogna ricordare che proprio il giorno prima del terremoto era appena stato annunciato questo possibile matrimonio tra le due più grosse borse giapponesi, quindi Tokyo e Osaka, che avrebbe dato un'ulteriore spinta agli investimenti sia nazionali ed esteri. Quindi in questo momento il governo, che ha reagito immediatamente nonostante il bassissimo consenso del primo ministro Naoto Kan, che era sceso al 20% con tutti gli ultimi scandali, questa azione diretta ha voluto salvaguardare l'immagine del paese, sostenere la divisa giapponese, questo livello di quota 80 contro dollaro che viene tenuto fortemente dalla banca centrale, e quindi con le parole si è detta disponibile anche a intervenire sulla borsa. Queste sono tutte misure che vengono attivate per frenare il rischio di speculazione, però siamo in un momento in cui il Giappone, che ricordiamo a gennaio fu proprio battuto dalla Cina in termini di PIL, grazie alla cooperazione internazionale, quindi proprio la Cina ed America, dovrebbe ritrovare una via di stabilizzazione, ma la situazione è ancora totalmente in balia degli eventi ed è molto difficile fare dei calcoli. Per adesso si contano gli effetti globali sul settore assicurativo, riassicurativo e su tutte le borse internazionali. Benissimo, questo mi sembra chiaro, e quindi in sostanza è per questo che il governo giapponese ha deciso di non chiudere la borsa, insomma, questo dice lei. Ma assolutamente, qui ci troviamo davanti a uno dei paesi del G7 che non può permettersi, come un paese emergente qualsiasi, che sia la Russia o altro, di chiudere la borsa. Dico, gli Stati Uniti l'hanno fatto, non è che non l'hanno fatto. Sì, però in questo caso ricordiamo che il 40% del PIL viene prodotto proprio nella zona di Tokyo ed Osaka, dove ci sono praticamente le due borse, e qui non è stato colpito il centro finanziario, quindi obiettivamente sono in grado di tenere, di reggere la situazione dal punto di vista delle quotazioni e di dare una parvenza quindi di regolarità nell'andamento dei mercati finanziari, perché il panico sarebbe molto peggio se dovessero sospendere le quotazioni. Ci scrivete, i giapponesi sono trapassati da radiazioni e voi parlate di PIL. Sì, parliamo di PIL perché tutte le notizie hanno vari aspetti. Tra poco torneremo sul tema della centrale con una finestra che apriremo anche all'interno di Focus Economia, così come abbiamo fatto ieri, per parlare di quello che sta succedendo, per darvi maggiori aggiornamenti sulla situazione appunto della centrale, per capire insomma come stanno andando le cose. Però tocchiamo anche questi aspetti, perché insomma quello che stanno facendo i mercati è abbastanza chiaro, e soprattutto vogliamo cercare di riuscire a capire quanto tutto questo può durare. Allora, professor Filippini, io tornerei proprio su questo tema. Allora, sul fronte della durata abbiamo detto che le cose non sono assolutamente chiare, per il semplice fatto che non è chiaro quello che succederà con questa centrale. Quello che possiamo forse immaginare è l'impatto sul resto dell'economia dell'area. Ecco, per diciamo lì confermare anche quanto diceva la collega che ha parlato prima, se noi pensiamo al terremoto di Kobe, che era in un'area densamente abitata, in uno dei due poli, appunto il polo di Osaka, no, produttivi più importanti. Il terremoto di Kobe avviene il 17 gennaio 95, la borsa, il Nikkei più esattamente, scende fra il primo di gennaio e il primo di febbraio del 10%, e poi, per la verità, dopo 6 mesi quasi ritorna in parità, e dopo 12 mesi era aumentato di più del 10%, quasi il 12%. Le misure prese dal governo giapponese sono state le tradizionali misure in una situazione di panico. Gli Stati Uniti avevano chiuso la borsa perché si minacciava un attacco terroristico su larghissima scala. Se avessero chiuso la borsa a Tokyo, il panico finanziario si sarebbe diffuso immediatamente in tutto il mondo. Le previsioni, diciamo così, a mio parere, sempre nell'ipotesi chiaramente più ottimistica che non vi siano grossi incidenti, grosse conseguenze dall'incidente nucleare, e che sui mercati finanziari mondiali la turbolenza non dovrebbe prolungarsi a lungo. Intendo dire, le banche giapponesi hanno una liquidità enorme in questo periodo proprio perché l'economia non andava benissimo e quindi non vi erano molti crediti concessi alle imprese o alle famiglie. Per di più il Giappone ha ancora un elevato tasso di risparmio e ha investimenti diretti all'estero, investimenti finanziari, ricchezza finanziaria all'estero in misura considerevole. Ma ripeto, date le dimensioni anche della distruzione avvenuta finora naturalmente, non si pensa che vi siano rimpatri di capitali verso il Giappone in misura rilevante, quindi non dovrebbe diffondersi un'ulteriore perturbazione sui mercati finanziari mondiali. Sì. Un problema forse leggermente più complesso che andrebbe esaminato è quello magari più relativo ai prodotti energetici, cioè all'effettiva esatto. Professore, io era esattamente su questo, una domanda che giro e le chiedo di essere piuttosto sintetico a lei, come girerò a Claudia Segre, ricordando ancora una volta ai nostri ascoltatori che nessuno qua si dimentica le vittime che sono state 10.000 se non andiamo errati secondo l'ultimo bilancio, ma anche qua le cifre oscillano di molto. Stiamo semplicemente trattando un altro aspetto di quello che è successo a Tokyo, lo ricordo un'altra volta. Allora, brevemente a lei, professor Filippini, secondo lei quale può essere l'impatto sull'energia? Insomma, si è già detto che il Giappone sostituirà parte di tutto questo con il gas, quindi un impatto sui prezzi del gas è più o meno inevitabile. Oggi il petrolio è calato, ma insomma, se le cose continuano ad andare avanti così, non scordiamo che c'è un'altra area di crisi che nel Maghreb, appena qua sotto, che è la Libia, nella quale i pozzi sono ancora sostanzialmente chiusi, insomma, non stanno andando. Immagino che un impatto sul prezzo del greggio ce lo possa avere, insomma, se la Germania chiude 7 centrali nucleari, no? Certamente, bisogna naturalmente vedere moltissimi fattori perché il problema è molto complicato. Ad esempio, fra poche settimane, si spera, entreremo nella stagione primaverile, quindi una stagione calda nella quale appunto c'è minor consumo di petrolio. La eventuale carenza di tutto il petrolio libico potrebbe essere sostituita dall'Arabia Saudita, che è uno dei, per la verità, pochi paesi che producono al di sotto della sua massima capacità produttiva. Il prezzo del petrolio poi dipende naturalmente dalle previsioni sull'economia mondiale. Se qualcuno è pessimista, cioè dice che andrà tutto a rotoli, mettiamola così, il prezzo del petrolio chiaramente cadrà, perché minore attività mondiale significa minore. Quindi ci sono tutti questi aspetti e anche direi l'autodisciplina giapponese nel conservare appunto energia, nel risparmiare energia, che probabilmente sarà il modo più efficace per risolvere questi problemi se di breve periodo di carenza di elettricità, di tagli a rotazioni dell'energia elettrica. Allora, intanto ringrazio il professor Carlo Filippini, docente ordinario di economia politica alla Bocconi e già direttore dell'ISESAO, il Centro di Studi Economico e Sociali per l'Asia Orientale. Buonasera professor Filippini. Grazie a voi. E chiudo invece con Claudia Segre, che lo ricordiamo, segretario generale di Asson Forex, esperto mercati emergenti, esperta di mercati emergenti per Abax Bank, proprio su questo tema. E poi naturalmente, intanto voglio dire, dire, quel che è successo sui mercati oggi ce lo abbiamo sotto gli occhi, lo citavamo in apertura. Ci sono tre titoli del fotovoltaico che sul mercato di Francoforte hanno guadagnato tra il 50 e il 30 e il 10%, quindi dal punto di vista del mercato è abbastanza chiaro. Dal punto di vista invece dei prezzi delle materie prime energetiche, secondo lei, Segre? Ma la sostanza è che qui bisogna trovare un bilanciamento tra quelle che sono le previsioni dell'impatto sul rischio di rallentamento della crescita dei paesi asiatici, che come sappiamo stanno trainando la crescita globale, quindi come questa cosa dal Giappone si produrrà sul resto dei paesi, e dall'altra parte abbiamo questo rallentamento della corsa al nucleare che certamente porterà degli effetti sui prezzi del gas naturale, del petrolio e del carbone, come già avvenuto in passato, soprattutto perché devono essere ancora ripristinate le linee elettriche in Giappone. Quindi senz'altro l'effetto del fotovoltaico tedesco, ricordiamo, è il massimo esportatore nonché produttore anche per quanto riguarda il mercato italiano, quindi era ovvio e ce lo si aspettava. Adesso ci aspettiamo certamente un rimbalzo di quotazioni, gli hedge fund stanno continuando ad andare lunghi di petrolio anche a questi prezzi. Grazie, grazie anche per questa informazione a Claudia Segre, grazie per essere stata con noi, buonasera. Arrivederci. Allora, noi chiudiamo questa prima parte, ci ritroviamo subito dopo la pausa con il nostro Paolo Piacenza, dove finalmente faremo il punto sulla situazione della centrale e poi parleremo ovviamente anche del quadro per quanto riguarda le vittime e i rischi da radiazioni. A tra poco. Le 17:40 minuti e 38 secondi. Veniamo dunque agli aggiornamenti più di pura cronaca su quel che sta succedendo nel paese. Abbiamo il nostro Paolo Piacenza qua. Buonasera Paolo. Buonasera Simone. Che ci sta aggiornando anche all'interno dei giornali radio. Partiamo proprio dalla conta delle vittime, da quante vittime ci sono state. Poi verremo alla questione più puramente delle radiazioni, perché anche su questo fronte ci sono delle novità. Allora Paolo, vai. Sì, il bilancio delle vittime tra morti e feriti ha superato quota 10.000 ed è l'ultimo bilancio fornito dal Dipartimento di Polizia giapponese. C'è da dire che oggi c'è stata un'altra scossa di terremoto, l'agenzia meteorologica giapponese ha rivisto da 6.2 a 6.4 la classificazione della scossa, che è stata registrata alle 22.31 locali con epicentro localizzato nella prefettura di Shizuoka, a circa 120 km a sud-ovest da Tokyo, nelle vicinanze del Monte Fuji. È stato escluso il rischio di un nuovo tsunami. Al momento il timore che si possano produrre altre scosse, si era parlato anche di una possibile scossa superiore al livello 7 nei prossimi giorni, entro il 18 marzo, purtroppo. Allora, questo dal lato appunto delle vittime, delle nuove scosse di terremoto. Dal lato invece della centrale nucleare sulla quale sono puntati gli occhi sostanzialmente di tutto il mondo, la situazione qual è? Ovviamente sì, le preoccupazioni sono come sempre, come ogni notte in Giappone, sulla situazione, come ogni giorno, ogni notte in queste ore, sulla situazione della centrale di Fukushima 1, in particolare sul reattore 2 e sul reattore 4. Sul reattore 4 il ministro degli esteri giapponese Takeaki Matsumoto, che ha parlato alla fine della riunione del G8 a Parigi, ha detto che le radiazioni dovute all'incidente nel reattore 4 potrebbero essere dannose per la salute. Teniamo conto che il reattore 4 non era attivo al momento del terremoto, e però ha preso fuoco perché si sono danneggiati tutti gli impianti di raffreddamento. La società di gestione, la TEPCO, ha fatto sapere di non riuscire a pompare acqua nel reattore 4, quindi prevede di lanciare acqua da un elicottero per cercare di far scendere la temperatura in una vasca di stoccaggio del combustibile, purché, hanno spiegato, l'apertura sul tetto sia sufficientemente ampia. C'è però anche il problema del reattore 2. Il direttore generale della IEA, che è un giapponese, Yuki Amano, ha detto che il nocciolo del reattore 2 della centrale nucleare di Fukushima 1 potrebbe aver subito dei danni limitati, intorno al 5% si è detto. Però contemporaneamente, in queste ore, anche la TEPCO ha informato che il livello dell'acqua di raffreddamento del reattore 2 sta recuperando senza intoppi, quindi qui la situazione sembra leggermente migliorare. Riferimento a questo 5%, teniamo conto che il danno che si era generato a Three Mile Island nel 79 era intorno al 25-30%, quindi è ancora abbastanza contenuto se fosse nei limiti del 5%. 5%, intendiamo 5% del materiale fissile, diciamo. Esattamente, così. Esattamente. Benissimo, vedremo dunque che cosa succederà, torneremo ad aggiornarvi naturalmente nel giornale radio e poi anche all'interno di Focus Economia nella seconda parte su questa situazione. Ringraziamo intanto Paolo Piacenza, che ritroveremo dunque più avanti e ripetute volte. Grazie Paolo e buonasera. Grazie a voi. Adesso diamo la linea alla viabilità, ci chiede Anna via sms al 349-238-6666, notizie su Edison, anche queste tra poco con i mercati. Le 17:46 minuti e 18 secondi, torniamo purtroppo per qualcuno sull'impatto che ha avuto sui mercati finanziari la vicenda giapponese, ma non solo, perché ci sono parecchie altre notizie che riguardano Edison, che riguardano Premafin, che riguardano anche Intesa San Paolo, dunque la borsa. Livia Zancaner di Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Di nuovo buonasera. In realtà, abbiamo dato un quadro generale prima di quello che è successo. Abbiamo detto che cosa è avvenuto soprattutto nel mercato di Francoforte, dove ci sono stati degli andamenti piuttosto interessanti. Ricordiamo che a Wall Street nella giornata di oggi, proprio per il peso che sta avendo la crisi giapponese, General Electric aveva aperto, se non sbaglio, con un calo dell'8%, Olivia? Sì, aveva aperto in netto calo, i futures perdevano il 5%, General Electric perdeva l'8%, ora in realtà, allora gli ultimi aggiornamenti erano che perdeva sul 5,6%. Sì, solo poi naturalmente è tutto relativo. Altri titoli che sono andati male in seguito agli eventi nipponici, titoli tecnologici? Sì, allora i titoli tecnologici hanno perso terreno poiché appunto per l'impatto della crisi in Giappone, che è un mercato centrale appunto per i colossi mondiali della tecnologia, visto che molti componenti elettronici arrivano proprio dal Giappone. Per quanto riguarda Milano, quindi c'è ST che ha perso il 4,3%, ricordiamo che ST realizza il 18% delle vendite in Giappone e Corea e il 10-12% dei ricavi proviene dal Giappone, soprattutto per quanto riguarda i settori automotive e telefoni cellulari, quindi comunque un calo consistente anche per ST. Allora, veniamo alla cosiddetta galassia Ligresti e quindi entriamo su temi un pochino più italiani, anche se parlando di assicurazioni in qualche misura sempre al Giappone dobbiamo far riferimento, però insomma l'andamento di Premafin, di Fondiaria Sai nella giornata di oggi dipendono un pochino di più da questioni interne, no? Sì, assolutamente sì. Allora, Premafin ha perso il 5,6% e Fonsai il 3% circa. I titoli hanno risentito oggi, oltre che appunto dal crollo dei mercati, dall'annuncio relativo al blocco delle trattative tra la famiglia Ligresti e francese di Groupama per quanto riguarda il possibile ingresso della compagnia francese nell'azionariato di Premafin. Gli accordi iniziali prevedevano infatti un ingresso di Groupama in Premafin con il 17% tramite un aumento di capitale. Questo progetto però, secondo la Consob, avrebbe comportato il lancio di un'offerta pubblica di acquisto su entrambe le società, quindi su Premafin e Fonsai. Praticamente la famiglia Ligresti e Fonsai hanno bloccato le trattative. La famiglia Ligresti ha detto che sta studiando altre soluzioni alternative per rafforzare il capitale del gruppo. E quindi ha pesato un pochino di incertezza tutto sommato. Sì, assolutamente. Nel senso che queste sì. Soluzioni al momento non si intravedono. No, al momento no, appunto la famiglia Ligresti ha solamente detto che sta studiando soluzioni alternative, ma in realtà nelle settimane scorse i titoli erano stati sostenuti anche appunto dalle future mosse dei francesi di Groupama, che a questo punto non ci saranno perché le trattative sono state bloccate. Allora, male ha fatto, Olivia, tutto il settore auto. Oggi l'amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne, ha rassicurato dicendo che la tragedia giapponese avrà un impatto minimo sulla domanda internazionale del settore, e però c'è stato un blocco della produzione per una serie di grandi produttori giapponesi, no? Sì, infatti il settore è in calo già da ieri, appunto penalizzato dalle conseguenze della situazione in Giappone, dove Toyota, Nissan e Honda hanno bloccato la produzione per alcuni giorni. Per quanto riguarda in particolare la Galassia Fiat e Fiat Industria, bisogna sottolineare che i titoli oggi sono scesi per la prima volta sotto il valore precedente allo scorporo tra Fiat e Fiat Industrial, che era stato realizzato il 3 gennaio 2010. Ricordiamo che nell'ultima seduta dell'anno Fiat quotava 15,43 euro e oggi i due titoli complessivamente, quindi il valore dei due titoli, è inferiore a tale somma. Allora, questo il quadro. Ci sono altre notizie di giornata, come quelle che riguardano Intesa San Paolo? Sì, allora Intesa San Paolo diciamo che ha peggiorato sul finale di seduta, è il peggior titolo del FTSE MIB, ha chiuso a meno 4,4%, oggi la società ha annunciato i conti del 2010, la banca ha archiviato lo scorso anno con un utile netto in calo del 3,6%, 2,7 miliardi di euro circa, e in realtà il consenso degli analisti si aspettava un utile più basso. Ha deluso invece in particolare l'utile del quarto trimestre. Ricordiamo che è stato proposto un dividendo invariato a 8 centesimi di euro, come era peraltro nelle attese. Allora, due titoli energetici, non per parlare di Giappone in questo caso, o non solo di quello, Enel innanzitutto, Livia. Sì, allora, per quanto riguarda Enel, il titolo ha chiuso poco sotto la parità, quindi a meno 0,5%. Bisogna dire che a inizio di seduta e per tutta la mattinata aveva risentito del calo del settore in Europa, ma per Enel c'è anche una novità. Infatti la società aveva comunicato i conti 2010 che sono risultati oltre le attese e ha alzato i target del piano industriale. Per quanto riguarda poi nel dettaglio il nucleare, quindi il dossier sul nucleare, l'amministratore delegato del gruppo Fulvio Conti ha detto che l'incidente non avrà un impatto sul piano di investimenti. Sì, e tra l'altro ascolteremo tra poco la voce di Conti al microfono della nostra inviata a Londra Paola Anania. Intanto sentiamo il suo commento sull'utile 2010 e poi ti chiedo brevemente di Edison. Sentiamo Fulvio Conti. La nostra azienda è un'azienda forte, resistente, efficiente. Abbiamo un mix tecnologico e un mix geografico molto interessanti e molto positivo, perché abbiamo tutte le tecnologie disponibili, quindi siamo sempre in grado di offrire al miglior prezzo, alle migliori condizioni, il nostro prodotto energetico in ciascun paese. Inoltre abbiamo innovato anche nel modo in cui si presentano le opportunità per il cliente di risparmiare. Inoltre viviamo in paesi ad alto tasso di crescita, mentre in Europa, nei mercati più maturi, abbiamo visto dopo la grande crisi del 2008-2009 una caduta molto rilevante della domanda di energia. Abbiamo paesi che hanno invece mostrato un forte tasso di crescita, come i paesi del Sud America. L'insieme di una geografia molto equilibrata, di tecnologie disponibili, di efficienze che abbiamo realizzato in casa nostra, ci rendono molto profittevoli e convinti di poter continuare su questo percorso anche negli anni a venire. Così Fulvio Conti. Infine ti chiedo questo pessimo andamento di Edison in borsa, Livia Zancaner. Sì, allora Edison ha perso oltre il 5% oggi. Ovviamente il titolo ha risentito l'andamento negativo delle borse e del comparto, ma c'è una notizia appunto che è di oggi. Praticamente i soci italiani, tra cui A2A e i soci francesi di EDF, hanno deciso di posticipare di 6 mesi la scadenza del patto, quindi comunque i due azionisti o diciamo gli azionisti in generale avranno tempo ancora 6 mesi per trovare un accordo sul controllo di Edison. Vedremo che cosa succederà dal lato di Edison. Grazie nel frattempo a Livia Zancaner di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera, grazie a voi. Allora, ci chiedete degli incentivi per le rinnovabili, se abbiamo notizie dell'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. Sappiamo che il Ministro dello Sviluppo Economico Romani era oggi in realtà a Bruxelles per parlare proprio di nucleare ed è arrivata una dichiarazione della Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Ha detto: venerdì ci incontreremo con il Ministro Romani, tutte le componenti di Confindustria stanno lavorando per arrivare ad un accordo complessivo e si parla naturalmente degli incentivi quindi sul rinnovabile. Adesso c'è la pausa per il giornale radio, ci ritroveremo subito dopo, torneremo a parlare delle vicende giapponesi, vi daremo altri aggiornamenti di cronaca e poi toccheremo più strettamente il tema del nucleare con le mosse che sono arrivate da parte della Germania e sentiremo anche nell'intervista realizzato Paola Nania sul nucleare proprio con l'amministratore delegato dell'Enel, sentiremo anche qualche posizione politica, tra poco. Le 18:09, vale la pena secondo me in una giornata come quella di oggi tornare a fare un brevissimo punto di borsa, FTSE All Share -1,95%, FTSE MIB -2,01%, borsa peggiore in Europa Francoforte in calo del 3,19%, insieme a Parigi in calo del 2,5%, l'America che in questo momento cede l'1,70% sul Dow Jones e l'1,72% sul Nasdaq, mentre la notizia di questa mattina è stato il crollo di Tokyo, -10,55%, male hanno fatto molti titoli dell'energia, fatti salvi quelli che si occupano di energie rinnovabili, Enel Green Power su tutti, più 1,23%, Alerion anche ha fatto un 1,20 circa di guadagno, bene hanno fatto anche altri titoli come CareSelf, un più 5,78%. Questo è più o meno il quadro della giornata con varie sfaccettature che in parte abbiamo già toccato. Veniamo adesso, e vi ricordo il numero per intervenire in diretta, che è sempre 349-238-6666 per gli SMS. Veniamo alla questione, anche questa che riguarda la vicenda giapponese, ossia la questione nucleare. Allora, tra poco torneremo ad aggiornarvi su quel che sta succedendo nella centrale atomica di Fukushima. Come avete sentito, ci sono dettagli che continuano ad arrivare. Vi abbiamo detto, e avete sentito anche nel giornale radio, che si parla di possibili danni alla salute da radiazioni. E arrivano anche notizie dal resto del mondo, da chi queste centrali nucleari le ha già. Come per esempio la Germania, che ha deciso di chiudere altri 7 vecchi reattori, o meglio 7 vecchi reattori in tutto, quindi 5 in più rispetto a quelli dichiarati ieri. L'Europa che decide gli stress test sulle centrali nucleari. La Russia che ripensa, non ripensa il suo programma atomico naturalmente, ma ripensa la sicurezza, e Putin ordina dei controlli. L'Italia, per quanto riguarda l'Italia, dove come sapete centrali nucleari non ce ne sono, ma si ha in programma di costruirle. Dice il ministro allo sviluppo economico Paolo Romani, è inimmaginabile tornare indietro, precisa il ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo, dal governo mai decisioni che possono mettere a rischio salute e sicurezza dei cittadini, il governo non è né cieco né sordo rispetto alle notizie che giungono da Tokyo e quindi annuncia ulteriore attenzione e piena trasparenza su quanto sta accadendo. Come si diceva però nel frattempo, il governo manca in commissione attività produttive e ambiente, quindi salta per oggi almeno l'esame del decreto legislativo che definisce i criteri per l'avvio di centrali nucleari in Italia. Decreto che deve essere approvato entro il 23 marzo, pena la decadenza. Per quanto riguarda invece Fulvio Conti, chi è direttamente coinvolto, sia l'Enel, Fulvio Conti, amministratore delegato, al microfono della nostra Paola Nania, inviata a Londra per la presentazione dei conti Enel. La posizione di Enel, dice Conti, è innanzitutto di cordoglio e di sostegno e poi interviene sul tema del nucleare italiano. La posizione di Enel evidentemente innanzitutto è di cordoglio e di sostegno a un popolo straordinario che sta facendo fronte ad una tragedia immane che non ha precedenti. Per quanto attiene invece alla gestione del problema nucleare, c'è da rimarchiare che il Giappone

credo che mettersi adesso a localizzare, come si dovrebbe fare secondo il piano del governo, centrali nucleari in Italia sia veramente un'avventura senza senso. Quindi fermatevi almeno e rifletteteci su. Le 18:20 minuti e 20 secondi, chiudiamo l'ascolto delle posizioni espresse oggi con quelle della presidente di Confindustria Emma Marcegaglia al microfono di Alessandra Schepisi. Dobbiamo aspettare, capire anche le indicazioni che verranno dall'Europa, però insomma la cosa importante è non agire, come dire, in modo emotivo, come diciamo l'Italia ha fatto anche in altre situazioni, quindi valutiamo bene. Ovviamente per noi rimane tutto il problema del costo dell'energia, il problema che importiamo gas da paesi appunto come Libia, Algeria, Russia, quindi io credo che diciamo la politica energetica che abbiamo impostato fino ad oggi per il momento vada mantenuta, poi ovviamente ragioneremo sulle conseguenze o sulle cose che succederanno in questi giorni. Tra l'altro dichiara il ministro dello sviluppo economico Paolo Romani, dichiarazione di poco fa sul tema della sicurezza nucleare, il problema non è più nazionale ma europeo. E a proposito di Europa, gli ultimi aggiornamenti in diretta col nostro Paolo Piacenza, dove dall'Europa perché il commissario europeo per l'energia non ha dato esattamente un quadro rassicurante della situazione, Paolo. No, direi proprio di no. Ha detto esattamente, si parla di apocalisse in Giappone, credo che la parola sia particolarmente ben scelta. Lo ha detto appunto Günther Oettinger riferendo sugli incidenti nucleari in Giappone davanti alla Commissione per l'Industria, la Ricerca e l'Energia del Parlamento Europeo a Bruxelles. Ha detto praticamente tutto è fuori controllo, non escludo il peggio nelle ore e nei giorni che vengono. Le preoccupazioni, come sappiamo, si concentrano sul reattore 4 e sul reattore 2 della centrale di Fukushima 1. La società di gestione, la TEPCO, ha fatto sapere che non riesce a pompare acqua nel reattore 4, prevede di lanciarla con un elicottero sempre che l'apertura al di sopra sopra il tetto sia sufficientemente ampia. Il ministro degli esteri giapponese ha ammesso che le radiazioni dovute all'incidente proprio nel reattore 4 potrebbero essere dannose per la salute. Sul reattore 2 il direttore generale della IEA, il giapponese Yuki Amano, ha detto che il nocciolo potrebbe aver subito danni limitati, inferiori al 5%, ma ha definito comunque preoccupante l'incidente. Dobbiamo anche sapere che comunque nel reattore 2 è stato danneggiato il secondo contenitore, non l'ultimo contenitore, e che per fortuna il livello dell'acqua di raffreddamento della centrale, del reattore 2 della centrale, sta recuperando secondo la TEPCO. Poco fa, sempre in Europa, Oettinger ha detto che la valutazione della gravità degli incidenti nucleari in Giappone è passata da un livello 4 a un livello 6 sulla base di quanto successo nelle ultime 24 ore. Oggi c'è stato molto dibattito sul livello di gravità dell'incidente. Livello 6 su 7, Paolo. Sì, 4, sì esatto, 6 su 7. Infatti l'Agenzia Nucleare della Sicurezza Nucleare francese con il presidente Lacoste aveva già fissato il livello a 6 su una scala di 7. L'agenzia giapponese però è ferma a 4, l'Italia con l'ISPA ha definito un livello 5. Oettinger, riferendo appunto questo livello 6 su 7, non ha escluso altri cambiamenti in positivo e negativo. Sia quel che sia, nella centrale 750 addetti sono stati evacuati, sono rimasti una cinquantina di tecnici, ma si sa che le radiazioni nell'area sono molto alte, tanto che nella sala di controllo non è possibile lavorare. Sono alte anche a Tokyo, anche se non, ovviamente non in queste proporzioni. Benissimo, grazie anche per questi aggiornamenti a Paolo Piacenza. Ti ritroveremo naturalmente nel giornale radio delle 19. Paolo, buonasera. Grazie, buonasera a voi. Tra le 18 e 24 minuti, siamo quasi in chiusura, tra poco parleremo di Ecofin, brevissimamente qualche sms, come era prevedibile si riapre il dibattito, c'è chi dice che gli italiani non vogliono il nucleare quindi non si farà mai, che bisogna aspettare la fusione fredda, alcuni dicono che la soluzione è il nucleare italiano all'estero. Ci chiedete ancora la situazione del decreto sulle fonti fotovoltaiche, sulle fonti rinnovabili. Ci sarà un incontro venerdì al Ministero dello Sviluppo Economico. E veniamo al Consiglio Ecofin, che ha dato il via libera alla riforma della governance economica, compresa la riforma del patto europeo di stabilità e di crescita, che contiene la stretta sui debiti pubblici. Antonio Pollio Salimbeni di Radio Cor Il Sole 24 Ore, corrispondente a Bruxelles, buonasera. Buonasera a voi. Allora, è arrivato questo via libera dell'Ecofin, c'è una stretta dal lato del debito, ma ci sembra di capire anche stando alle parole del ministro dell'economia Giulio Tremonti, che qualche buona notizia per l'Italia c'è, soprattutto dal lato di come verranno considerati altri fattori, che era quello a cui l'Italia puntava, ossia il debito privato. Sì, il ministro Tremonti è apparso abbastanza ottimista e per nulla preoccupato della stretta alla sorveglianza sui bilanci pubblici e in particolare sul debito pubblico. Questo perché da un lato l'Ecofin ha definitivamente sancito che ci sarà una regola numerica, una cifra. Sostanzialmente si tratta di ridurre il debito, la parte eccedente, il debito pubblico, il 60% del PIL, del prodotto lordo, per noi significa praticamente metà, noi abbiamo un debito pari al 120% del prodotto lordo, si tratta di ridurre questo 60% di debito in tre anni almeno di un ventesimo all'anno. Scusami Antonio, spiegaci bene, cioè la parte eccedente, il 60%, va ridotta di almeno un ventesimo. Un ventesimo l'anno nei tre anni precedenti il momento in cui si analizza e si valuta l'andamento del debito. Questa regola numerica, diciamo che a bocce ferme si tratterebbe anche di un 3% l'anno, però non ha molto senso dire questa cifra, perché dipende da quanto sarà la crescita economica in quell'anno. Quanto più cresce un paese, tanto meno dovrà ridurre il debito pubblico, per un fatto numerico. Questa regola quantitativa viene addolcita da una valutazione qualitativa sulla sostenibilità del debito pubblico, che dipende da fattori che non riguardano soltanto il deficit, che non riguarda soltanto l'indebitamento classico, riguarda per esempio gli squilibri di parte corrente, riguarda se le banche sono indebitate o meno, riguarda le proiezioni di crescita della spesa pubblica per pensioni, sanità, eccetera. In questo quadro questo principio che l'Italia ha voluto viene scolpito nel marmo. Detto questo, però, bisogna aggiungere che il debito privato, cioè di famiglie, imprese, banche, verrà valutato soltanto nella misura in cui ha un impatto sui conti pubblici in futuro, cioè sulle passività, non in termini assoluti. Quindi una buona notizia a metà. Esatto. Chiarissimo, grazie ad Antonio Pollio Salimbeni per averci spiegato tutto questo. Io vi riferisco solo brevemente perché ci rimane pochissimo tempo. Intanto ti saluto Antonio, buonasera. Buonasera a voi. Vi riferisco dell'opinione del presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, che intervenendo al tavolo dell'Ecofin dice: questa riforma della governance non basta. Ed è tutto per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, una buona serata. Radio 24, la passione si sente.